Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tale figlio, tale padre. A Castellammare di Stabia due docenti sono state aggredite e maltrattate dal padre di un piccolo alunno ritenuto troppo vivace. L'uomo, 33 anni, si è recato nella scuola elementare di Via Monacello per invitare le insegnanti ad avere con il proprio figlio atteggiamenti più concilianti rispetto ai comportamenti ribelli del bambino in classe. Per farlo non ha esitato a ricorrere a metodi alquanto violenti nei confronti delle due maestre. Il genitore ha prima schiaffeggiato l'insegnante del figlio, poi ha afferrato per il collo un'altra maestra intervenuta nel vano tentativo di difendere la collega dall'aggressione. Entrambe le docenti sono state medicate presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare, mentre l'uomo è stato identificato e denunciato dalla polizia per lesioni e violenza privata. Oggi ho voluto dedicare questa puntata agli insegnanti. Oggi la maggior parte delle scuole sono chiuse, quindi gli insegnanti saranno in vacanza, saranno a casa, o se saranno a scuola comunque non avranno i ragazzi da seguire, quindi avranno più tempo per ascoltarci alla radio. Tutto nasce da una notizia che è uscita ieri su BBC News, che parla appunto di alcuni insegnanti di scuola media, immagino, del Regno Unito, che hanno fatto un'inchiesta, un sondaggio negli iscritti al più grosso sindacato di insegnanti che c'è in Inghilterra. Hanno preso 7500 membri e è venuto fuori che sono gravemente colpiti dal fenomeno del cyberbullismo. Voi dice, ma il cyberbullismo riguarda gli alunni? No, riguarda anche gli insegnanti. Gli insegnanti inglesi hanno spesso delle violente, a volte immotivate, ma molto pesanti campagne online contro di loro. Pubblicano foto fatte durante l'orario di lezione, li sputtanano nei social media, parlano o ammiccano o alludono a loro, diciamo, abitudini sessuali, naturalmente presunte, immaginate, inventate, che è l'argomento base di ogni attacco di cyberbullo. Mettono in dubbio la loro capacità di insegnare, insomma, li tartassano velocemente, fortemente, tanto che molti insegnanti sono stati costretti ad andarsene perché non reggevano più a questo tipo di pressione. Ma entrando nello specifico del dato di questo attacco nei confronti degli insegnanti, si è scoperto che un 30% di questi attacchi erano fatti dai genitori, dalle famiglie, e un 10% dai ragazzi assieme ai genitori. Parliamo di bambini che potrebbero avere anche 7 anni, che comunque in generale l'attacco veloce e violento nei confronti degli insegnanti da parte delle famiglie, che sentono autorizzate comunque a distruggerli, colpirli attraverso il mezzo della rete, che è un mezzo molto subdolo, molto infame, che molte volte nasconde anche apparentemente, perlomeno nelle intenzioni, la persona che muove l'attacco, permette di confonderla, salvo poi con attente indagini rintracciarla. Comunque chi agisce con un attacco attraverso i social media pensa di avere comunque, di godere dell'impunità, di godere comunque del consenso, di usare uno strumento che permette quel tipo di attacco. Beh, la cosa sorprendente è che bambini di 7 anni sentano autorizzate le famiglie di usare lo strumento dello sputtanamento via web nei confronti dell'insegnante che a loro non va bene, che a loro non funziona. Ora, siccome questi incidenti cominciano a essere anche numerosi, stanno cominciando a pensare a prendere qualche provvedimento, che soltanto in pochissimi casi l'insegnante poi ha il coraggio, la maniera o a modo, anche gli strumenti per evitare questa devastazione e quindi denunciare le persone che compiono questa azione. Molte volte gli insegnanti sono stati accusati di essere, cioè accusati con insulti razzisti, con accuse malevole, hanno deciso di lasciare l'insegnamento, o perlomeno se no sono caduti, come cade ogni vittima dei bulli, in uno stato depressivo, in uno stato di ansia, insomma, sono fortemente colpiti. Beh, accade qualcosa del genere anche in Italia? Risulta che in Italia questo, che potrebbe essere una punta avanzata del rapporto sbagliato, errato o non perfettamente consapevole fra famiglie e insegnanti, abbia mostrato questo aspetto negativo. La nostra cultura digitale, che probabilmente non è superiore a quella del Regno Unito, si esprime anche in questa maniera quello che dovrebbe essere un'opera di salvaguardia da parte delle famiglie nei confronti dei cyberbulli, evidentemente affonda su un sostrato così fragile, cioè famiglie che usano lo stesso strumento di vessazione nei confronti degli insegnanti, dell'autorità scolastica, solo perché magari il loro pargoletto non è tenuto nella necessaria considerazione, o come spesso accade, c'è sempre un insegnante che ce l'ha con il proprio figlio, che non conosce il proprio mestiere, che potrebbe anche accadere questo, non dico che da escludere a priori, ma che diventi una regola, tanto che in un sondaggio con un numero così importante di persone, 7500 membri, risulta chiaro, evidente, che le famiglie hanno una parte responsabile negli attacchi attraverso i social media nei confronti degli insegnanti. Vorrei sapere se qualche insegnante che ascolta, qualche genitore comunque nella ragione, mi spiega, mi racconta o mi illumina sul fatto che anche in Italia qualcosa del genere possa accadere. 800 24 00 24. Va ristabilito il rispetto dei ruoli, i docenti devono essere rispettati per il lavoro che fanno, i genitori devono avere il loro ruolo nei confronti dei propri figli, se genitori e docenti operano insieme e si rispettano l'un con l'altro, credo che possiamo fare grandi passi avanti. Noi genitori dobbiamo avere fiducia della scuola, ma la scuola deve avere certamente fiducia dei genitori. Avete rotto le palle, adesso voi fate silenzio fin tanto che non arriviamo. È chiaro, no? E c'è poco da ridere per tutti. Va bene? Va bene, no? Va bene, no? Mi sono stufato, eh? Mi sono stufato, c'è poco da ridere. Non parlo simpaticone, non mi fai ridere per niente. Ecco, qualche traccia la diamo noi. Questo è un insegnante che sclera durante una gita scolastica, magari avrà avuto i suoi motivi, ma certo non è bello sentire un insegnante che dice adesso avete rotto le palle, o a meno che sia inserito in un particolare quadro didattico in cui vuole raggiungere lo stesso livello di linguaggio dei propri alunni. Comunque non mi interessa, però questo filmato l'abbiamo preso su YouTube casualmente cercando. Oggi gli insegnanti, che probabilmente non sempre hanno gli strumenti per capire, percepire quello che è il livello di cultura digitale dei propri alunni, che molte volte è distorto, è semplicemente racchiuso in una capacità tecnica molto avanzata di usare gli strumenti che hanno a disposizione, quindi i loro smartphone, ma non per farne certo un uso mirato alla condivisione di saperi, alla scoperta di nuovi orizzonti culturali, a scoprire quelle che sono le facoltà, le capacità che si ha proiettato in un social media, lo usano semplicemente per fare un'operazione di sputtanamento al proprio insegnante, lo filmano con il telefonino e poi lo mettono in rete. Ecco, qualcosa di simile accade, sta accadendo, accade in maniera sistematica. Vi risulta che attraverso i mediatori tecnologici di cultura, che sono gli smartphone, i tablet, le lavagne collegate in rete, che ormai sono in molte scuole italiane, passi anche una maniera forse distorta, mal compresa, mal capita, di quelle che sono le autonomie in rete, la capacità di autoprodurre il proprio pensiero, di diffondere il proprio pensiero. Insomma, insegnanti, vi rendete conto che siete sotto osservazione? Capite che i vostri ragazzi hanno degli strumenti in mano anche molto difficili, se non compresi a fondo, a essere considerati soltanto dei giocattoli? Davide, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista. Ma io ho 63 anni, per cui per me risulta quasi semplice fare un paragone di diversità, perché ho vissuto questi anni in cui, quando andavo a scuola io, c'era l'insegnante, c'era il genitore, c'era l'alunno. Quindi dobbiamo tornare un pochino indietro, dal decreto delegati in poi, dal voto facile, sei politico. Ma lei è un insegnante? È un insegnante lei? No, sono un dirigente d'azienda. Vengo da questa scuola, da questa cultura, nella quale ognuno aveva un proprio ruolo, l'insegnante aveva un ruolo, io non sono un fidelizzato dell'insegnante, entra e tu ti devi alzare per forza, ma non sono neanche di quelli che necessariamente dice entra l'insegnante e l'alunno dà del tuo all'insegnante pur avendo 7 anni. Quindi questa disgregazione dei ruoli ci ha portato qui, quindi siamo figli di queste cose, non dobbiamo stupirci se oggi gli stessi genitori che all'interno delle proprie compagnie fanno i filmati per, come si dice oggi facilmente, sputtanare l'amico o l'amica, dopo lo fanno anche i figli, perché la conseguenza di quello che i figli danno, dei genitori danno ai figli, porta a queste situazioni. Allora mi faccia capire, Davide, la sua riflessione è su due piani. Da un punto di vista, diciamo, c'è uno scollamento generale e una perdita di ruolo di insegnanti, di genitori, certo, di allievo. Ma la circostanza additiva in più, la cosa ci fa riflettere, è lo strumento potentissimo in mano sia agli insegnanti che agli alunni che ai genitori, che se usato in maniera distorta, vessatoria, a volte anche criminale, diventa uno strumento che aumenta questo squilibrio. Cioè una famiglia con un bimbo minchia che è il reuccio della casa e della famiglia, e pensando che l'insegnante non faccia il proprio dovere, ammesso, non concesso, possa essere vero, invece che seguire delle vie cosiddette ufficiali e naturali per capire se ci sono veramente dei problemi, dice vabbè, sputtaniamolo su Facebook, fammi qualche immagine, qualche foto quando sbrocca o quando in atteggiamenti strani, o inventami qualcosa, lo mettiamo in rete e poi vediamo che succede. Questa è la circostanza nuova. Sì, io da un'altra parte, avendo delle figlie, non sto difendendo gli insegnanti a stata brava. No, assolutamente, figuriamoci, non è questo l'intento. Che secondo me dovrebbero cambiare completamente mestiere, proprio perché non sono né in grado di farsi valere all'interno della classe, e questo non significa punire o tantomeno mettere le mani addosso ai ragazzi, ci mancherebbe altro, ma la personalità, il sapere dell'insegnante che si confronta da sempre, per tutta la sua vita, con qualcuno che non sa tutto quello che sa l'insegnante, quindi con tutto quello che l'insegnante potrebbe trasferire per far innamorare della propria scienza, della propria cultura l'allievo, molto spesso l'insegnante è quello che legge il giornale, esagero, legge il giornale in classe piuttosto che... Qui non sto facendo nel processo un'assoluzione degli insegnanti, sto solo cercando di capire quanto l'alfabetizzazione rispetto alla maniera di comunicare più diretta, più individuale, crei ancora di più una spaccatura, un solco quasi incolmabile fra la necessità di adeguarsi ai nuovi media, alle nuove maniere di comunicare, e la necessità di educare, insegnare ragazzi a usarli bene. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Senta, io intervengo perché volevo portare questa causa dello psicologo nelle scuole. Lei è uno psicologo nello scolastico? No, io non sono uno psicologo scolastico, sono un commerciante. Però vedo, cioè parliamo tanto di bullismo, parliamo tanto di la scuola, i ragazzi che hanno bisogno di un aiuto, di un supporto psicologico, e poi abbiamo tanti professori, la maggior parte sicuramente preparati e bravi, però la figura di uno psicologo all'interno della scuola, come esiste penso negli altri paesi europei e in America, non è previsto nel nostro ordinamento. Cioè ne farei volentieri a meno di un professore e di inserire uno psicologo come supporto a questi ragazzi che hanno bisogno di avere un aiuto. Ma in questo caso sono anche le famiglie, ci dicono persone, sto leggendo gli sms, che per esempio ai colloqui fra genitori e insegnanti, quando i genitori vengono a sapere molte volte che il figlio va male, se la prendono con il professore. La prima reazione è prendersela con il professore, non riflettere un attimo se il figlio abbia dei ormai dei problemi. Ormai hanno delegato tutti l'insegnamento, sia le famiglie sia molti professori, hanno delegato alla internet, a vari strumenti nuovi. Vabbè, questo fa parte della contemporaneità, è qualcosa con cui bisogna fare i conti. Rosetta, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io sono una insegnante di liceo, di educazione fisica, purtroppo la mia non è una materia molto apprezzata. Ma è strano, comunque, dovrebbe essere il contrario, è l'ora più divertente dovrebbe essere. Certo, è l'ora più divertente nel senso che i ragazzi dopo essere stati diverse ore in classe si scatenano. È l'ora del casino comunque, quindi praticamente? Come? È l'ora del casino in cui si fanno... Anzi, succede che molte volte mi ritrovo in palestra alunni che hanno l'insegnante di filosofia o di lettere. Dice, professoressa, possiamo stare con lei? Ma io dico, non potete. Quindi la sua è una specie di ora di ricreazione, lei non ha un programma... Perché quest'anno, pensa, la maturità porta l'educazione fisica. Non so, me l'ha detto mio figlio, ci devo portare educazione fisica. Non so cosa gli chiederanno. No, adesso noi non siamo più educazione fisica. Scienze motorie e sportive. Sì, vabbè. Siamo arti sonanti adesso. Sì, ma il problema è che si chiede a mio figlio, dice, ma cosa devo fare agli esami di scienze motorie? C'è un bel programma anche teorico. Che non è mai stato fatto durante l'anno scolastico. Anatomia, fisiologia, eccetera. Va bene. A prescindere da questo, quello che voglio dire è che purtroppo noi insegnanti, al di là della disciplina per la quale, per le quali siamo impegnati, abbiamo a che fare con persone, con ragazzi purtroppo, che non hanno interesse. Il problema, lo dice Rosetta, insegnante di scienze motorie, che i ragazzi non hanno interesse. Vediamo fra un istante, dopo l'informazione del traffico, se altri insegnanti ci stanno chiamando questa mattina, visto che abbiamo colto la mattina giusta per loro, ci sanno dare qualche segnale su quanto aumenti questo incolmabile divario fra classe docente, famiglie e ragazzi, il fatto che i ragazzi siano molto veloci, svelti, attenti con le nuove tecnologie, nuove che ormai non sono più manco nuove, e gli insegnanti ne sono spesso vittime. Melog, cronache meridiane. Sotto gli occhi di una ventina di alunni di una scuola media della Garbatella, accorsi proprio per assistere alla rissa, volano prima gli insulti, poi calci e pugni. Il padre della giovane vittima solo a fatica riesce a sottrarre la figlia dal pestaggio, ma non finisce qui. Il commissariato Colombo avvia le indagini su una storia che sembra chiusa ma non lo è, perché il padre dell'adolescente picchiata decide di farsi giustizia da solo. Si incontra col padre di una delle altre ragazze, lo aggredisce e colpisce anche i poliziotti intervenuti per sedare la rissa. Viene fermato a fatica, mentre scattano le manette. Stiamo complicando le cose, fai da fra padri perché si scazzottano i figli davanti alla scuola, perché non li sorvegliano abbastanza le persone che dovrebbero sorvegliarle durante l'orario scolastico. Davanti a me la fotocopia di un pezzo di un collega, Paolo Rastelli, sul Corriere: noi genitori contro i professori, la follia che ci spinge. Rastelli è andato un giorno a un colloquio con i professori, si è accorto c'è una lunga fila da fare, perché c'è sempre quello che si attarda di più, che parla così, e i discorsi dei genitori erano tutti contro i professori. Dice: è possibile, ci siamo liberati appena in un'epoca in cui i professori avevano sempre ragione, può essere adesso abbiano sempre torto, sia sempre colpa loro, qual è il giusto equilibrio? Cerchiamo di capirlo questa mattina da un articolo uscito su BBC News, dove racconta la follia per cui un numero importante di insegnanti nelle scuole inglesi è sottoposto a cyberbullismo, ma da chi? Da parte dei genitori. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Grazie per avermi fatto. Io parlo da genitore a un bambino di 7 anni che va a scuola. Secondo me sbagliamo noi genitori nei confronti degli insegnanti. Vogliamo prendere il loro posto quando noi non siamo a scuola. E io parlo anche che sono stato alunno anch'io, a mia volta, e le garantisco che ero tremendo. Io portavo a casa le note, ne buscavo. Mio figlio me ne ha portate due a casa di note. E l'ha menato? So. L'ha menato? No. È cambiato ora la situazione. Però le punizioni gliele do. L'ultima nota che mi ha preso è perché, diciamo, si è fatto convincere da un ragazzo, e io ho cercato di fargli capire: se ragioni con la testa degli altri, sbagli. Convincere a fare cosa? Eh? A cosa l'ha convinto il ragazzo? L'ha convinto a giocare alla lotta, e va bene, non è quello il problema. Non rispondeva alle maestre quando gli dicevano di smetterla. E quindi: papà, ma io non l'ho sentito. Ma le maestre l'hanno visto. Vabbè, diciamo ancora in tempo, ancora qua siamo a una fase embrionale del trattamento scolastico. Lei può lavorarci, mi sembra che abbia gli strumenti giusti. Qua siamo a un punto di vista diverso, non è un atteggiamento come il suo, che comunque dà uno spazio al corpo insegnante di potersi esprimere. Proprio per partito preso, gli insegnanti non vanno bene, noi i nostri figli sfondiamo tutti. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono la mamma di un alunno di prima liceo scientifico e mi rendo conto che noi genitori non abbiamo spesso le competenze per andare a capire i ragazzi che cosa stanno facendosi telefonini su Facebook, sulle loro chat. Mio figlio con la sua classe spesso, io ho scoperto, beffeggiano gli insegnanti in maniera, diciamo, goliardica, non pesante. Lo abbiamo fatto tutti. L'abbiamo fatto tutti. Io penso un po', andavo a scuola dai preti, immagini quanto potevamo sfogarci. Però usavamo maniere più analogiche, nel senso scrivevamo, disegnavamo, inventavamo sconce canzonette, ma la rete è diversa, perché colpisce molto più profondamente. Quello che a me stupisce è che molto spesso molti genitori... Poi, scusi, la differenza: a mio tempo i miei genitori stanno dalla parte degli insegnanti, non dalla mia parte. in assoluto. Assolutamente. Io quando l'ho scoperto ho detto assolutamente a mio figlio di limitare questa cosa a qualche battuta, perché l'insegnante è una persona come loro e deve essere rispettata anche in quello che è il suo difetto, anche in quella che può essere la sua manchevolezza in quel momento, perché sta lì per lavorare per loro. Tutto sommato, però, io mi rendo conto che molti genitori non hanno le competenze per andare a vedere i figli che cosa stanno facendo. Qua scrive un suo collega, genitore o insegnante, non so bene, in un sms: caro Nicoletti, oggi i genitori più sono ignoranti e più sono delle carogne, insegnare è quasi una tragedia, d'accordo? Sì, sono d'accordo assolutamente, tanto di cappello agli insegnanti, perché è una tragedia, non possono muovere più un dito. Noi genitori dobbiamo assolutamente verificare cosa fanno i ragazzi e intervenire per tempo. Il genitore del ragazzino che faceva l'imitazione dell'insegnante era assolutamente all'oscuro. Quando gli è stato detto, ho detto: credo che tuo figlio faccia delle imitazioni sulla chat scolastica. Lui ha detto: non è possibile che sia mio figlio, altrimenti non conosco mio figlio. E molti genitori non conoscono i propri figli. Questo comunque da un certo punto di vista in poi è anche salutare. I figli crescono e prendono le distanze dai genitori, però durante almeno il periodo della scuola dell'obbligo, a 14 anni, fatto. Se mi posso permettere, quello che sto dicendo, a 14 anni bisognerebbe capire un po', o perlomeno dare a loro gli strumenti per usare quella fantastica maniera di esprimersi che sono i social media nella maniera giusta. Veronica, buongiorno. Nicoletti, salve. Io sono una docente di istituto tecnico, insegnerei, o almeno ci provo, italiano e storia. E negli ultimi anni, devo dire, mi sono anche trovata a utilizzare ogni tipo di media, compreso i social network. Come è giusto che sia, certo. Sì, assolutamente. Guardi, se lei adesso dovesse sbirciare nel mio Facebook, ho la casella messaggi che è colma di tipologia dell'esame di maturità. E questo perché dopo aver combattuto con i ragazzi per dire postatemene su mail, non c'è verso, e allora ok, Facebook. Allora vedo Veronica, no, lei è un caso interessante, lei è un insegnante che ha un profilo Facebook, il suo profilo è aperto ai suoi alunni, cioè interagiscono con il suo profilo Facebook? Allora, mi sono data questa regola: io non chiedo ai ragazzi l'amicizia, se vogliono me la chiedono loro. A quel punto lì mi trovo a fare anche lezione di italiano su Facebook, gli correggo gli errori di ortografia e cose del genere, ma soprattutto faccio interventi in cui gli chiedo magari di rimuovere delle foto che non sono, come dire, consone. Diciamo, lei continua magari il suo ruolo di insegnante anche, diciamo, nel cyberspazio, chiamiamola con un termine un po' antico così, ma comunque nei social media. Sì, mi pare giusto in fondo. Vabbè, non tutti fanno così. Lei naturalmente è salvaguardata, visto che conosce il mezzo, sa come usarlo, da eventuali attacchi di cyberbullismo, secondo me, perché lei conosce e contrasta. Il trollismo in rete si ferma con un'attività interessante, seria e capace, se no altrimenti uno diventa vittima dei ragazzi. Ecco, sì, ho visto colleghi diventarlo e ho intervenuto. Ma quindi succede questa cosa, sì, che c'è in Inghilterra? Mi spieghi in che termini succede? Non so, foto postate su Facebook con docenti in classe svillaneggiati alle loro spalle, oppure non so, ecco, ho in mente ancora una collega di alcuni anni fa che usava mettere una biancheria o intima un po' grazioso sotto i jeans. Ecco, lei non sa quante foto ho chiesto di tirar via dai profili con lei di spalle, per carità, non riconoscibile, ma a me, cioè, fotografavano le mutande all'insegnante e le mettevano in rete. Oddio, l'insegnante deve avere un pochino più di cura di non mostrare le mutande in vista, secondo me, durante l'orario scolastico, ma è anche giusto, se gli capita un attimo di piegarsi troppo, non è nemmeno corretto che questo venga oggetto di sputtanamento in rete. L'abbiamo lambita soltanto, ma ci siamo arrivati, accade anche in Italia, avete sentito? A domani.